Sì, buongiorno. Sono lì. Lo sai, mi si è rotto il modem del computer e volevano pagarglielo quelli della TIM, quello nuovo, grazie se non me ne davano, lo volevano 95 euro più 40 tornate da 5 euro, ma insomma, e cazzo devo pagare 400 euro, la giustifica tutto. E ti fanno pagare però, Natalie, per staccare tutto. No, io me ne posso andare quando voglio. Ma poi mi sono cambiato, va via, un modo invece, va via. L'ha già attaccato, cazzo, una belva, A chi tu che maniera tu esi? La viene poi sul blocco, più di chi tu tanto non andava. Chi c'è un treno? Era per attaccare quello lì, era uguale. Dice la legge che puoi mettere qualsiasi modo in che vuoi tu. Capito? Non sei obbligato a comprarlo da loro. Ho capito. Insomma, tutto quanto si faccia di peggio di Messica, se si faccia dalla serrata, guido, guidato, c'è sempre faccia di si roba a casa. Accolti una cosa e si faccia l'assa. Ciao Luca, ma chi sta serrata, quando vede? Non c'è più strumenti, non manda, ma c'è più gente a ricerca tra la luce. Allora, si potrebbe fare anche domani mattina, tu come sei messo? Cos'è che è questa serranda? Il cavo rotto, cosa c'ha? No, è rotto, te l'ho detto, è diventato molle, dico, deve essere la molla che si è mollata. Ma quello l'avevo già sistemato io, Eia. È da vedere già. Domani mattina, facciamo vediamo un po' se mi lascio la macchina, perché non mi faccio un salto. Lunedì va bene, dai, perché domani mi stresso, pulendolo a casa. Lunedì sono a fine, devi venire tu a prendermi allora, se no mi devo scendere in bici, me la metto la bici, dopo me la rubano. Vai, qua, mané, anche se la bici vecchia, si attacca, mica. Se la bici è più giovane, tu sei vecchio. Te la faccio mettere in cortile la bici, se vuoi. Capito, Natale, sei tu vecchio, non la bici. Se vengo lì e te ne taglia a schiaffi quella barba brutta che c'hai, mi, bello bene. Ma questa è la modulazione di montagna, Natale, come mai stai facendo così male? Natale, stai dicendo tu, questo è omologato e sto facendo bene io. Ma se mai è una catola di cigaretti, pari, non è una catola di giunno, ma no, ma non mi riesci bene, sto, a confronto sentite come ti sentivo prima, bene bene, sento un po' strano, non lo so già, o sono io. Cazzo, ma che tu ne vuoi sapere poco di cosa che tu Luca? A te lo immaginati, Vabbè, stai ce l'ho che non riesci bene, poi fai questo che vuoi, se vuoi ti dico. Vai, cambia spacciatore. Ah, c'è la voce così perché mi hai dato la bamba, per quello, c'è la cristallina la voce. Aria. Rogato. Cazzo, boh, non si può di nudo, adesso Natalino, cazzo. Adesso non ci trova Natalino. Allora, a parte di scherzo, non stai uscendo bene, non ti ascolto bene io. Forse perché siamo troppo vicini, No, è così, sta uscendo, è strano come sto uscendo, anche io lo sento così. Era meglio l'altro, ma l'altro non lo può toccare perché già lo sai perché. Ah, vabbè, se disturba non comodo. Ma io non ho capito, ma vabbè, l'ho detto l'altro giorno, questa qua non lo disturbo la TV, cioè, vabbè, aspetta. Voglio fare una prova, scusate, Perché? Sto buttando. Allora, lasciami lì. Metta, dai uno, vediamo. Aspetta. Vediamo. No, allora, questo qua mi disturba, questo che c'ha... Dicevo la decoder esterno. Ma adesso questa qua la devo regalare alla TV. Con la tampollice da Massava. Niente. Come l'hanno regalata? Me lo regalo. Ti ha promessa. È una persona che ne ha bisogno. Sì, vabbè. Fa un atto buono. E via. Quanta gente. Che magari prima stava bene, adesso è finita a essere povera, già, diciamo una piccola pensioncina, due figli. No, vabbè, io vado dove mi interessa tu. Del resto. È così. Signore Benedetto, grazie, io sono costretto a uscire con questo Polmar. Dice signore Benedetto, non Benedetto. Benedetto, sì. Ma va bene dentro però. Mi fa anche schifo a vederlo questo baracchino. Fra poco già ti dà l'altro. Ma quello me lo voglio vendere, cazzo, non ne voglio tenere. Vediamo che metterti l'altro omologato, cazzo. Quello già ci va bene. Sì, tu è una... non so come definirlo, là. Vabbè. È interessante sentirsi, anche se non è performante, ma ci sono degli omologati che escono bene, non c'è bisogno di uscire male perché sei omologato. Questo non li puoi fare nulla. Non li puoi fare niente, non li puoi alzare la radio, nulla, non li puoi fare nulla. Questo qui è nato male e basta. È handicappato da quando è nato. Cazzo, una cosa che ci va da chi no. Ha provato a mettergli mano Alessio, non c'è riuscito, assolutamente. L'ha dovuto regalare. Ehi, si lamentava sempre, non gli piaceva manco a lui. Che non gli puoi fare nulla, è andato a salivato e non usciva più, solo in FM usciva, è fatta apposta per non poterlo modificare, capito? È casino. Si era riuscito a contarmi lui su Superstar, capito? Si ave... Vendo Superstar 2009. Ce l'ho, devo cercare di aggiustarlo, non ne voglio spendere altri soldi. Questo qui se mi danno sono il Superstar, lo prendo e lo butto nel cazzonetto. Questo è immacolato, questo lì è immacolato, non va un graffio niente. Lo sto prendendo così, perché ne ho su. Già lo so, ma io non ne voglio spendere soldi per i baracchini, basta. Fini! Adesso vediamo un po' se riusciamo a aggiustare il Superstar, che adesso me lo metteva a mano perché stava aggiustando altra cosa e non ha avuto tempo di mettergli mano anche io. Me l'ha detto a mezzogiorno, perché l'ho chiamato quando mi stavano facendo quella truffa alla fine. Ma non è voi già? Non è dico frequente. Beh sì, me lo so. Se dovessi vendere tutta la roba che c'ho divento ricco, cazzo. Solo la macchina fotografica, cazzo, c'è 1000 euro di materiale minimo. Ah, io non l'ammetti, do. Mi dai. Fermami, non la uso mai. C'ho, cazzo, il teleobiettivo, il grandangolo originale mi della Canon. Cazzo. L'obiettivo normale, cioè la borsa, tutta la roba è vedere nella borsa, il coso per mettere le batterie e i buchi, cazzo, quello che ci mette sotto la macchina, cos'è la roba che va? Cosa c'è la di 60 tu? No, c'ho la... ma allora non me la metto come se... come ci chiama. Comunque è una Canon elettronica, ce l'hai vista com'è? Quella che c'ho io. C'ho il 6300 come teleobiettivo. No, che vengo di targhi, di macchine, di radiazione della luce. Io ce l'avevo già da quando l'ho comprato, il teleobiettivo. C'avevo il 70-135. Io il 70-300 questo. È una belva. Ma sfocca? No, guarda che di lusso, ma di lusso avvio, e se no il grandangolo, da vicino mi tutta la facciata di un coso di la stazione ci ho pigliato, tu devi dire come te, quel grandangolo e se no quando lo usavo per fare i filmati, quel grandangolo, di lusso veramente. Io lo sai cosa mi divertivo col grandangolo, mi avvicinavo alle 500, li facevo il muso largo largo, sembrava una supercar. Già lo so, cazzo, ma sono di lusso. Cazzo c'ho due pistole, due fucili da vendere, cazzo c'ho la macchina fotografica, questo baracchino lo butto nel cazzonetto, non ne vendo neanche perché mi cazzo mi picchiano se mi vendo questo baracchino. Cazzo, due ricevitori da vendere. Ma da lì, se te lo vedi col baracchino ti fai nemici. Fai i miei bicchini con un roccio, se prendo il tuo baracchino. Hanno truffato a me, che hanno truffato con questo baracchino? A me a Pomponio. Magari se li metti un microfono amplificato, bambino. Va che non accetta, poi non è a quattro punte, c'ha a sei punte, anche se lo spinotto è di quelli normali, no? Però c'ha più punte. Ah, è un baracchino del cavolo proprio questo. C'ha un microfono che è microscopico, allora non di microscopico, venivate pure a modulare. Praticamente saranno i due capi dell'Apudano, ma se escluderli quelli non è un problema, no? Basta escludere quelli e li attacchi gli altri, quello non è un problema, li metti un microfono amplificato e va meglio. Non lo so se lo accetta e questo è fatto per non essere modificato. Ma io mettiamoci d'accordo con la macchina fotografica. Si chiama Opidao, Opidao. Opidao. Eh? Opidao tiki tuki. Comunque già va bene, dai. C'è la storia, la macchina fotografica, come lo sapere. Userò poco anch'io, la mia l'ho data a Manuela perché la usavo poco. Fa certe fotografie a Manuela, anche in bianco e nero, e sono favolose. Ne avevo fatto una io quando c'era la neve alta qua a Sacro Cuore, dai, non qua. E da casa di mamma c'erano due cari pastori tedeschi che ci seguivano in mezzo alla neve e gliel'ho fatta in bianco e nero, ma la giacca per me. Ci siete, sì, Luca, ci sei. Ah, io questa la fai la pena. Infatti che sono come te, aspetta, sto sistemando una cosa qua. Sistema. Che è che sta gridando? Hai sentito più Gigino Vulcano? Cosa? Ho detto che non si è sentito più Gigino Vulcano. Ah, non sta più entrando. Ormai ha perso la fantasia, Gigino. Ha perso. Avamo è più giovane un cane, quindi... non ne ha funzionata di baracchino, manco i camionisti non ne più di baracchino, nessuno, cazzo, tutti li sto vedendo e non ne hanno più antenna, boh. Ah, qualcuno ce l'ha, li ho visti io, le noto anche io apposta, sì, stiamo usando molto, come ti si chiama, quell'app che c'è, della Midland, quella lì, e poi stanno usando i telefoni. Infatti il baracchino non ne sta usando più nessuno. Uno c'è ancora, che quando sono andato a Urbia ci ho parlato io. Ma sono più unici che rari. Allora già, stanno usando l'app TikTok per fare le dirette. Fatto che baracchino è. L'app di TikTok. Sì, l'app di TikTok, per fare le dirette. L'unica diretta che faccio è col canto, quando canto, perché me le mando in automatico sia su TikTok che su Facebook. Comunque, come si dice? Usano l'app, vabbè, devi avere 1000 follower per fare le dirette. I camionisti sono tutti lì. Invece adesso se c'è qualcuno, vediamo. Se sai chiude, se c'è scritto. Se chiude per maltempo negozianti del centro, del centro, d'accordo col comune. Peccato, ma che sfiga però, dai. Cosa chiude? Per la cavalcata, la fanno il 4 giugno. Ah, sì, sì, lo so. L'hanno rinviata per il maltempo, dice che fa un bel brutto tempo anche qua adesso. Infatti devo uscire oggi, se già domani c'è la macchina, scuola la macchina, se non la pezza Peppino. Lascia vedere, allora, vediamo, c'è questa qua che vive in Italia ma è rumena, mi pare, una donna, lui da Tir, il Tir dell'ossigeno. Già vuole l'ossigeno? Ho detto che guida il Tir dell'ossigeno, porta l'ossigeno agli ospedali. Ce n'era una, quella della Nutcao, che portava la Nutella a noi, e praticamente tutta la famiglia aveva una villona enorme, con un parco per i camion grandissimo, tutti i figli, moglie, marito, tutti autotrenisti, ed erano tutti loro gli autotreni. Però praticamente poi ci vedevano a fine settimana e ci ritrovavano tutti. Prima baracchino c'è, basta, adesso c'è computer, c'è il telefono, lo smartphone che fa tutto, tutto di più. È così. Ti hai mandato queste cose, non è uno scemo, tranquillo. Si fa tutto l'acqua. Però vabbè. Noi ce l'abbiamo ancora il baracchino, c'è, perché il baracchino ancora esiste, certo che esiste sempre. Ma chi c'è? Qualcuno c'è ancora. Alla fine è sempre una cosa vecchia che piace. O no già? Guarda adesso dove ci sono stati i rubifragi, Bologna, quelle zone lì. Non c'è linea telefonica, non c'è luce. L'unica cosa che si può usare è il baracchino lì. Infatti. Dei walkie talkie del PNR, là. Queste cose qua. È vero, è vero. È vero. E vabbè, comunque. Casino. Vabbè che devi usare quelli a batteria, perché cazzo non si possono parlare perché non c'è corrente. Devi usare quelli a batteria oppure dai mesi, sempre se non stanno galleggiando. Ma noi l'abbiamo andato sotto casa sua, c'è come un fiume che passa di acqua. Meno male lì al primo piano e si è salvata. Già, c'è il gruppo elettrogeno, esiste il gruppo elettrogeno, eh? Il gruppo elettrogeno, dove te lo metti, che è tutto gatto allagato. Ehi, se vuoi rinascere, da che parte lo mettono? Caricano le batterie dal gruppo elettrogeno, e poi modulare. Poi già ci sono i radiamatori che sono attrezzati per queste cose. Natali, poco se scendi basso, ciao già, ciao Luca, ciao Natali. Chi è lo Franco Calipoli che mi deve andare a vedere? Franco, dove sei, Capagata? Sono esattamente a San Giorgio. A Santo Giorgio, in Girela. Sì, sono andato a fare la commissione già. Adesso rientro, piano piano, decaballate. Mi ascoltate? Sì. Pure io, pure lì arrivo, Fra, catta. Adesso. Ah, Fra, pure lì arrivo. Aspetta, se 9.30 è 9. Io vabbè, c'ho una pena di gomma, magari non mi ascoltate. Qua si segnale 3, 4, radio 2. Dalla macchina, una pena di gomma, ho già pretesti. È un casino. C'è che sta a fondo scala, c'è la mazza di rivaria. Io che sto usando quel Polmar, Fra. Sto usando quello io. Gianni, sì, 9.35 qua, a San Giorgio. Cavagava. Adesso non sono col baracchino, aspetta. Più basso sono io, scusate. E qua è questo Franco, Frankstein. Ma c'è 9.40, sì, a fondo schiena, sì. Bene, mi ascolti, Luca. Chi è la radio, fratello, che è? Come c'è, da quell'antenna piccolina. Sveglia, un po' complessa la modulazione, forse perché si è agganciato. Agganciato sono, allora. Quanto c'è? 300. Aspetta, avanti, cosa vuoi? Sì, con lo zero dopo. Aspetta, avanti, io esco basso dalla macchina, cosa 300 avanti. Così non basta batteria. E quando cammini già si carica. Ma infatti ce l'ho perché sono in movimento, Gianni. Capito? Sì, la ferma te la scarica. A me mi hai facciato la centralina, Infatti io non lo pongo mai a manettone, se no mi crepa quanto c'è. No, io baracchino solo. Già mi sento lo stesso io. Franco! Ma non è male sto facendo in questa forma. Cazzo, guarda, non ti riconosco, magari. No, ti riconosco, la radio non è un gran tema, non è forte la radio, capito? È una radio normale, come ti dice il Vangelo, capito? Tutto lì. Però già va bene, dai. Non è che puoi pretendere più di tanto. Ma già va bene così. Ma perché lo tenete modificato in mano? Lo devo mettere già, lo devo mettere. Stasera sto usando un Intec. Tipo quello che c'è Natalino, un MT400. Lo vuoi fare un affare già? Di che c'è? Mi dà 3.900 euro lo smart, 55 pollici. No, non ne faccio nulla, ce l'ho televisore. Già per te. Non ne faccio nulla, l'ho comprato nuovo da poco. L'ho comprato un Samsung. Già, hai un televisore di Sirio, non ridi. Guarda, scherzo, non te lo do, ma ti sbaglio, come io sono una macchina. No, ma fammi sapere quanto vuoi per quello là. Cosa? Fammi sapere quanto vuoi per quello là. No, oh, troppo già, troppo. Stava gara! Ma io mi prego di voi, la vita mia, la mia linea, la mia... Che è, vedete? Fatto dopo che ci vuoi, Luca, allucinante. Non so se mi sentite ancora, eh! Già ti sentiamo! Sei fissato, lo fra! Ah, va, stacco, dai! Adesso bene, va! Adesso sì, sei forte! Che raga, avete a parecchio di ginesi! Buh, buh! E c'è bene! Poco fa è risato, lo! Piovende, fra! A cazzo, Natalie, ero troppo in lontananza, va bene, ma qua a Sassari non fa attaccarlo, capito? Fra, piovende c'è. E io non che ne farei di aria. Chi è, chi è? Ma vabbè. Tempo de merda, de merda. Oh, fra, mi si è bruciato il modo del... funzionavano più i telefoni, non mi funzionavano, e l'attimo mi ha detto che volia 95 euro ma dammi la sua modem e più altre 48 razzi da 5 euro, ma che ci sono macchi, te lo do io un modem che ce l'ho, no, ce l'avevo anch'io, ho preso, piazzato quest'altro e loro sono convinti che è sempre quello che mi hanno fatto loro che si è ripristinato col cazzo, è poco veloce, un blocco non viene molto della velocità, ha detto che maniera detti, al doppio questo cammina. Perché te lo fanno pagare, capito quello lì, è un casino. No, questo, loro te lo devono dare gratis, e infatti se mi si brucia questo, vado e me lo compro io il modem. Tanto lo puoi mettere il modem comprato, capito? Sta la nuova legge che puoi metterti il modem che vuoi tu, capito? E la giovedì che fruttiti. Eglia, eglia. Alla settimana prossima sono consultato e butto giù con l'antenna, Natali. Perché mi sta rompendo un po' le balle con l'antenna. Ma per subito che mi devi fare all'aria. Prima di ti fare il tempo, non mi piace tu antenna. Dici che tu fai sacchetta, fate tempo vero a vero. E vabbè, la farò quando migliora il tempo, cosa vuoi ti dica? Sì che c'ho il filo per il difolo, mi fra. Me l'ho staccato il mio. E così ti do quello lì. E già, speriamo che basta il filo, non lo so, ma dovrebbe bastare. Vediamo un po'. Quindi no problem. E quando c'è la cappiata dell'antenna ce lo metto su. Grazie. Andava. Non lo so, perché se mi basta quel filo che ho, glielo lascio quel RG58, capito? E lo metto sul dipolo quello lì, e l'altra calata la faccio dall'antenna. Yeah, andrà bene meta. Se no è un casino, ho già imbattavo tutto. Vabbè. Qua ho sistemato e pronto a piazzare, quindi non c'è problema. Infatti, il dipolo lo metti a convertita ed è una bomba quel dipolo. Ma infatti farò così. Bene va questo baracchino. Va bene quel baraccocco. È feo però, non mi la frutti nulla. A me non mi funziona bene. La macchina vado troppo bene. E anche questo, c'è un'antenna piccolina a me. Scusate. E vabbè, c'è fissata bella la massa, capito? Va, è funzionante come si deve. Per tutte ci vengono. Pure se minori andrà benissimo. Ma c'ho il 48 modificato, se lo voglio mettere, ma non mi ne ha putti nulla. Sì, infatti, se ne dici su quando avevi la macchina. Ah, giusto così. Quando viaggio, vedi, lo accendo. Però, dov'è che mi ne ha... Non volevo gravare addirittura, ma lo lascio e fa compagnia quando viaggio. Sì, infatti. Stamattina io sono uscito in macchina e non vi era nessuno. sparito. Perché poi mi sono trattenuto da chi, da mia sorella, un casino, e questo, e quello, gli altri, cioè, come in sé. Quindi non c'era già tardi, era la una macco un quarto, giù di tu, oramai, era vazio. Adesso per domani mattina a vedere cosa fare, buh, ma se è tempo di merda cosa fare, non puoi fare nulla. C'è più verda va, dice che mi farà l'aria. Ha dato tempo brutto, ha dato. Vabbè che entro un attimo MD, Natali, dai, devo prendere l'olio e l'acqua, dai. Ci sentiamo dopo. Ah, già siamo qui. Ciao Gianni e ciao a Luca, dai, a dopo. Ciao Fra. Sono qui. Coccone, che se me la porta un giorno, non c'è più dormito. Ma già ci sto buono, Gianni, che sai, che ha fatto? Non ho dormito dopo pranzo, perché stavo facendo roba e... mi sono sdraiato, se 5 minuti mi sono drubito. Uia, sta anche sta arretrato. Beh, sì, già, a puttettini. Io lo stesso non ho dormito niente, perché stavo facendo cose, mi ero collegato di rumore, mito, guidato, mamma mia, sempre la palavra. Meno male che ce l'avevo, se no cazzo mi toccava pagare 95 euro per quel modem, secondo Luca Budetti, era una sua cosa, me l'avevo pigliato. Senti, mi dico un pareggio, mi dissi di modem. Ma poi loro, se vogliono credere, se te lo devo tornare loro, se no te le vai da un altro, te lo danno gratis. Intanto ci hanno, dice che non ne dasi ne più gratis, e però io, guarda, se io non avessi avuto il modo gli avrei dato di setta domani mattina, ma di brutto però me ne era andato, avevo pagato la metà perché stanno dando internet a 20 euro, 19, ed io mi sono occupato che di 45 mi pare, il suo cazzo di latino. Siano attenti perché sono lì lì per andarle. Io le pago 60 ogni due mesi, 55 e 60, però c'ho un po' la ho la fibra, eh. Pure c'ho la fibra, ma è quella del rame che mi danno, qua non arriva la fibra ottica, capito? No, io c'ho quella ottica. E risulta tipo gli alberi di Natale, quando mettono nel capo, e visto che gli alberi di Natale che sono a fibra ottica, così fa, si illumina. Già lo so come funziona, già lo so, si arriva dentro casa la vera fibra, questa invece la chiamano in fibra, ma non è fibra, è sempre doppino, non ce n'è qua fibra e non ne arriverà per la sovrintendenza qua per colpa di questi incrosti, hanno fermato l'open fiber, se no sarebbe arrivata anche qua, non vuole mai fussarmi. Incantato, ah, già. Non senti questa propagazione che c'è, sei incantato, era. La gara incantata. E Lucrezia all'altro, sì. Dice che stava facendo roba lì. Vedi, sempre facendo, sta. Allora, questo Luca, ma te lo puoi immaginare che... Cavagava. Ma San Gavino lo fanno questo, che tu sappia, lo fanno questa settimana. Cosa? Santo Baizu, questa settimana. Io non me l'ammetto già, la verità è non me lo ricordo. So che la settimana prima della Pentecoste, però non lo so quando sia. Con certa bisognerebbe chiedere, ma non vea, va. Quindi, domanda a che paesino, è degli Arzani. Vabbè, ne ho su internet, c'ho colleghi, c'ho un sacco di gente, perché ci sono le vibrazioni. Ma se hai un vibratore ti rifai tu le vibrazioni. Mia questo qui. Cavagava e cavagava! Attento collega, ci ascolti l'isola sarda, cambio! E l'altro le cavagava, cavagava, cavagava. E sta salendo comunque la propagazione, si sente il rumore. Come ha cambiato il tempo, Emi? Ma in peggio sta cambiando tutto, ma cari dai. Stiamo vivendo tante situazioni che prima non si sentivano. Allora, tutta l'Emilia Romagna rovinata, c'è povera gente, cazzo. Tutto un lago d'era, eh. e i contadini, e quelli che hanno preso di più sono le allevature di bestiame, i contadini. Poi ci sono anche le persone normali, che una signora di 75 anni ha detto che è stata tutta la vita a pagarsi il mutuo per la casa, per avere una casa a piano terra, cavolo, ed era, ha distrutto tutto. Ne aveva fatto anche le camerette per i nipotini, dice che stanno galleggiando. Immagina, e tutto nel bello povarazzo, cura a noi, vediamo bene di tutti i colori. Tutta la vita andata lì pagando il mutuo, rimane che aveva 20 anni di mutuo che era pagato. Non lo sai come, io sono figlio mio. C'è sacrifici, infatti in un momento mi è svanito tutto, tutti i progressi che ho fatto sono svaniti in un attimo, campagna, bestiame, casa, tutto. Allora, la natura è la cosa più che non puoi filmare assolutamente, non puoi combattere contro la natura già. La forza della natura è tremenda, io mi ricordo quella volta che ho fatto quella trombadaria, stavo andando a lavorare a Porto Torres, mi è caduto un albero proprio davanti alla macchina, ho fatto il tempo e tempo a sterzarlo, mi ha tolto le patate, ma non mi sono fermato perché c'era un acquazzone, l'acqua che arrivava sul cofano della macchina, lì delle curve di sorso invidriarsi, mi stavo salendo lì quando è successo. Cioè, è successo nel rettilineo, poi sono salito lì su, c'era l'acqua che ti arrivava sul cofano. Immaginati quanta acqua c'è. A me mi era successo in la parata di Rulanti Dozzi, così. Mi era successo. Gesù Cristo mio. Se mi fermavo ero fottito. Alla Madonnina. Sì, tutto allagato in chiedi, arrivi a cazzo a Rucoppa, non leva. Sai quante volte siamo andati con Land Rover e col viricello a togliere le macchine da lì? Mi da piedi si via così. E io parente tranquillo quando mi sono cacciappato in tutta che c'era, Gesù Cristo mio, a giudicare, sono correcito un cazzo a stare in una strada, oh, anche se no, se mi fermavo un cazzo rimane anche mi la mano. E più di uno ci è rimasto bloccato, lì si allaga sempre quel punto lì. Infatti, ma io non lo sapevo però. Lo so, non è che... bisogna prendere con le macchine anfibie, che quando c'è queste calamità qua vai a motore, via. Sì, ti pare il coso del motoscafo. E come quelle dei pompieri, le ho viste quelle vigili del fuoco, quelle camminano sia in terra che in acqua. Infatti sono delle barche quelle, barche con le ruote. Sì, infatti, li usano in questi casi qua. No, come ci vai? E la gente che stavano salvando, l'ho visto, l'avevo filmato, che stavano me ne parlare i lacrimi, non mi sa chi li vedo per ne parlare i lacrimi, boh. Con gli elicotteri, con tutto che sono a disposizione, non mi sai bene. Sono contento che, guarda, in Emilia Romagna è successo una catastrofe veramente. La volta che era successa qua quella tromba d'aria, oh già, a me mi ha segato il tubo, ma mi ha segato con una moletta. Il tubo dell'antenna, mi l'ho trovata coricata sul tetto, è rimasta sul tetto per via dei tiranti, se no l'avevano acciappata alla sinara che s'antenna. E a me lo stesso, mi aveva piegato il tubo, perché un tirante da una parte non l'avevo messo, adesso l'ho messo, ma prima non c'era, e ha tirato, c'era il tirante da una parte e invece il vento ha tirato dall'altra, capito? E mi ha fottito, ma me l'ha proprio piegato. A me è tagliato proprio, Maria, tagliata a moletta, Maria. La natura è tremenda, anche se scoperchiare le case da lì, figurati se non ti vuoi da parante. A finché vieni in America, chi sotto si legna, cazzo, mi ricamano, se ti vado a stare a capito di cazzo, da una rete parte in chi mi, quando sono stati così in America. E poi chi vi sono tornato, di tutto e di più, trombe d'aria, cazzo, fa certi danni, è vero. Fa volare i tetti proprio delle case, le barche, tutte quante sganciate dal muro, tutte in mezzo al mare. Allora, quando passa lì fa danni enormi. È vero, purtroppo. noia. E io ho preoccupato di Emanuela e ogni giorno la stavo telefonando. Ma due, tre volte. Perché se manca la luce e poi non posso caricare il telefono, come fa? Sì, infatti. Ma voi non siete venuti davvero? È casino, quando uno c'ha figli così lontani, per forza rimane preoccupato già. Forse già quando è successa quell'alluvione a Urbia, che c'era l'ello, di cazzo, subito vedo che è fumato. Manco Marie dirami, non la state, non l'ha toccato. Se no, ha fatto un disastro in chimico, ma stessi in Urbia. Sì, a Urbia, sento, ogni volta che piove Urbia è un fosso. Pensa che Massimo, mio cognato, quello che fa l'analista, prima era all'ospedale di Urbia, e abitava a Urbia, c'era la casa lì, e c'aveva praticamente il garage con una discesa che scendeva giù il garage, no? Questa discesa si riempiva sempre d'acqua, si allagava tutto il gatto e si faceva tipo una vasca. E con tutto che c'erano le gratte, le pulivano sempre, per... non ce la faceva perché era troppa l'acqua, scendeva da tutte le vie e andava, si defluiva tutta lì, capito? Non era Basiano? Cazzo, Gesù Cristo mio. E succedono anni quando è così. Ma noi l'abbiamo mandato la fotografia, se l'altro non te la faccio vedere, sotto casa sua, e l'acqua correva come se fosse un lago. E allora, perché lì hanno rotto gli argini, i fiumi, succede un casino. Quando mai hanno fatto come ti si tocca la cosa? Mi esce no, come prima della maglia sinistra. Tu ti raccogliai, tipo lì. E da poi tutti i miliardi che si muovono, mi hanno succede i disastri. È per quello che l'Italia è così. Perché succedono tante di queste cose. E poi a ricostruire ci vogliono i miliardi, perché ci vogliono i miliardi, perché sono disastri enormi. Ma poi Natali che ti sto mandando quella fotografia, quella cosa che ha fatto Manuela sotto casa. E tutti molti siete qua, tutti molti, sono io e Gianni, ci siamo. Ma se siete qua comodi, io la chiudo al telefono, Tu stavi stufando con quell'amica tua. Lo già, io ho visto già, mamma mia. Non potevano uscire. Come fai a uscire? Ma non è la corrente di Sindra Cinesia anch'io. Sì, sì, è come se fosse il mare mosso, la stessa cosa. Ti tira, ti... perché la forza della pioggia che scende dalle parti alte e poi ti trascina. Ecco, è quello è il danno, che roba che fa ragazzo a ruota libera, io la prendo domani la mattina, con sinusasia, cazzo mio, e sono cose, guarda, io quando li leggo, non ne sto guardando neanche nel telegiornale, perché mi fanno vedere queste cose. Di tutto e di più di te, il telegiornale, non solo quello, ma anche cose peggiù. E se no chi da guerra in coso e ma come si chiama? Ucraina. Oh, io tutta distrutta rami cazzo, ma l'avevo fatto pagare tutta chi su Pompione, tutto l'avevo fatto pagare. E gente esaltata, capisci? Deve far vedere di primeggiare in tutto. Ah, che vuoi venire qua pure i suoi mattecci, devi venire a pigliarli e ammazzarli subito, a chi questo è un megalomane. E Natali c'è se sui seguaci anche, capito? Mostruendo mi puoi salire là. Ma lo posturà così, visto là il battaglione quello mercenario che sono pagati, chi se li sono ritirati a chi non li sono denti anni. Vedrai se ce ne pensa in Russia a pigliare la fata di birra a cura, chiccio. Disgraziato che non è altro, delinquente, cazzo. E dice che prima gli ucraini ammazzavano i bambini in Russia, tutti quelli che trovavano, che se non conosciamo la storia loro non dobbiamo parlare, ha detto questo russo. Vai, che non è vero. Mi russi sono i più grandi ballisti che possono esistere, e i più mali soprattutto. E freddi sono, freddi come il gelo che c'hanno loro. Allora, io mi, c'avevo un'amica russa, ah, come ti mi ha favitato Mari, poco poco, che dici dietro che mi stavano i padroni e noi dei tiracchi, non l'ho più guardata in faccia, non sono d'altro, mi sono mandata a far culo. Anch'io ce l'avevo un'amica russa, però era la vicina mia. Subito eliminati vogliono quella gente, immediatamente. Io ho avuto anche nemico, russa e ucraina. Vabbè, però i russi cazzo so, degli medici imbriaconi, a volte camici vanno in nuovi nuovi, ma che femmine. È vero, la tagli. Io mi ammetto che una volta sono andato a casa del sardo e ci siamo fermati in questo mar perché dovevo andare in bagno e ci abbiamo preso qualcosa da bere, lei ci ha preso di mattina, ci ha preso il vino, ti ha detto un bicchiere di vino, quello gli ha messo il vino e ha detto questo cos'è? Un vino, ma ne metta altro, che questo qui non è un vino, a metà me lo mette, e lui ha detto noi lo serviamo così, se ne vuole altro lo deve pagare di due, se guarda te ne lo metta, cosa deve fare? Embriacone, so. Anzi, chissà se da dar vino, a volte caisse andami. Ah, lo so, sì, io sono stato a un pranzo di donne russe, che mi ha portato lì, di questa qua, che era tanto tempo che mancava ed è venuta in Sardegna a lavorare. Gli hanno fatto la festa, ma vera di tutto, era agosto, questo qui stava con uno di Alghero, con un pescatore, che si è portato aragoste, pesci, ha fatto risalto, un riso con i frutti di mare, ma roba breca, tutta roba buona. Sì, me lo posso immaginare, cazzo non è che chi mi se ne pensa a farsela addosso qui. E c'erano anche le tartine col caviale russo. La devi succurare. E boh, che l'avevo già attaccato a quelle. Ho mangiato, sì, ma più di tutti, perché io e quel pescatore di Alghero ci siamo attaccati, ci abbiamo mangiato quasi tutte le tartine. Quello costa, il caviale russo. Quello l'ha portato, quella che è venuta dalla Russia, l'ha portato lì. Allora, il gold caviar, cazzo è proprio buio. E mo che buono. Ha fatto le tartine, ma erano una squisitezza. Una volta un'amica mia mi ha fatto la il caviale. Io te l'ho mangiato il caviale lo stesso. Già lo so, ma questa amica mia era ricca, si va via la casa a caccia di usaggio, va a tirare un gol, a rubaggio la via, la casa, no, ma c'è del sangue. Vedi, potevo fare così. Aspetta che c'è Luca che sta chiamando, Luca va. Facendo sto già. Sì, di lusso. Maria, scappa, scappa Roger. Ok. Va bene, va bene. Anche bella forte la radio. Vabbè. Avevi dei dubbi? Oh. No, non avevo dubbi. E con quanti volte stai uscendo? 10. Ui, a picchi? 50. E va bene. Dei russos. Chiara, chiara. Aspetta. È chiara anche la radio. Chiara è la radio, K. Eia, chiarissimo. 1002 è questo. No, questo è il 2004. La stavo dicendo. Va bene comunque, è un bel apparecchio il 1002. Sono regolato io, per forza va bene. Tu devi regolare. Allora, diglielo lui, diglielo a questo qui. Allora, diglielo a te. Chiara, chiara. Tutto raggiro K. Vedono, anche se c'è l'apparecchio della mucca già li ho visti. Se sentimi la te ti piace Natale? Se sapete davvero, il minoretto di lusso. dicono che va bene anche tutti. Il 7003 è di lusso, mi hanno detto, poi io non l'ho provato, quindi non posso esprimermi, ma gente che ce l'ha ha detto che va benissimo. Va bene, sì, certo che va bene. Siamo andati in video anche. Già lo so. Ok, oh yeah. Oh, oh. Signor, mamma mia. Ha trovato la cattiva che si abbassava la zona. Cosa, Natalia? Quelle sedie con le rotelle, no? Mi si abbassava da sola. Ah, ehi, quando il pistone che c'è in mezzo che si scarica col tempo. Ma c'è nuova, si scarica. Ha giubilato una riga di singoli stringi tubi, ragazzi, di quelle facenti stringi tubi. Col capo lo si muove più. Vabbè, perché c'è quella levetta sotto per regolare? C'ho problemi quella lì, un attimo che devo rispondere a dei messaggi. Ci sentiamo dopo, riprendi già. Ehi, allora, va bene, andare. Avanti, tattarito, che ora sono? Tutto per te. Aspetta, adesso te me lo dici, so. Oh, yeah. Oggi non mangio mai a dunda a pranzo. Oh, ho mangiato una mozzarella con due pomodori e ho fatto la caprese. E a te se l'ho giocato la carne. Ha mangiato meglio di me. Adesso mi ordino le pizze, dammi il telefono con te. Brutto cane morto. Brutto cane morto. E me lo dici così che mangi le pizze. E cosa ti devo dire allora? A mezzodia ti mangiato minestra e ricotta. E qua è quello. Mangia sempre pizze, mangia come a me. Ma non ti sa la glicemia, Natali, con la pizza? No, io non ce l'ho grave come la tua. C'ho un diabete leggero, da. Io ce l'ho da poco, tu mi dai da un mese. Non mi sale più di tanto. Ma non esiste diabete leggero, c'è diabete tipo 1 e tipo 2. Il tipo 2, se mangi cose non devi mangiare, da ripicco. Anche se non è che ti regoli. Io stamattina ce l'avevo 86 la glicemia. Infatti mi sono mangiato un pacco di cracker perché era troppo bassa. E mi stavo avendo la tremarella. Mi sono mangiato un pacco di cracker e mi è passato. Dipende sempre dalle volte e anche dall'insulina che ti fai. Avanti, ma c'è il tipo 2. E anch'io c'ho il tipo 2. Non ti credo, anch'io c'ho il tipo 2. Vabbè, allora. Aspetta un attimo che mi ordino le pizze. E fai, fai. Vabbè, ci vuoi fare? Fatto! Tutti morti? Chi te bari? Stavo chiamando che avevo già ordinato le... Anche per me le ordinate? Perché se sei a casa tua, io sono a casa mia, ho dato l'indirizzo di nonchi, l'ha aiutato. Andavo a casa tua. Ah, sto scherzando, io ce l'ho sotto casa, ma sta lì. E ha della subissina, mi arriva calda calda a casa. Brucia, brucia, non mi la vai a bagnarla. Anche a me mi arriva calda calda. È così che mi piace, a me calda calda. Che si chiama il caldo. Eia, e per quello mi sono scaldato, così mangiando pizza. Comunque io me ne faccio poco di insulina, non me ne faccio quando te ne fai tu o quando se ne può fare coso, Tonino per esempio, io la faccio solo. seconda della notte. Solo per non ordinarmi un'altra pastiglia per via della pancreatite e me l'ha lasciata. Perché dice che io ho bisogno di insulina, non ne ho. Ma tagliamo e mi sale perché mangio. Se uno mangia cose che non deve mangiare, è normale che gli sagasse, per dire ieri è venuto Marco. C'era un'occasione perché mi ha presentato la fidanzata e ho comprato della Coca-Cola, io l'ho presa per me senza zuccheri, l'ho presa. E per loro ho preso la Coca-Cola con lo zucchero e in più ho preso dei succhi, altra roba. Beh, non sai che cosa hanno voluto loro, la Coca-Cola senza zucchero, ma li ha fatta apposta, ma ne ha lasciato visto con lo zucchero, la mamma in denta. Sarà della bandita. Cazzo, oppure il cazzo nostro, la ghiaccia di la vita. Buttala! No, buttarla è un sacrilegio, l'ho pagata. No, al limite la regalo a Marco, la faccio bere a Maurizio quando viene, mio nipote. No, buttare non la butto, assolutamente no. Però intanto vedi come capita. Ci hanno bevuto quella senza zuccheri, perché i ragazzi adesso ci tengono a queste cose, ci stanno attenti. Che cazzo va? Regalala a Maurizio, portatela via, cazzo, in modo che non è altro. A che ci do si sente? Io lo so. E quella senza zucchero ce la posso bere, non mi è salita la glicemia, l'ho bevuta e non mi è salita. Ma l'altra, ma è bamba, fa di chi f***o. Cazzo, se senza zuccheri, l'altra invece si va a stare in picco, si va a passare. L'altra è micidiale, l'altra è un concentrato proprio di glucosio, poi invece andava a fare la curva da carico. E poi si fa da cosa, si fa da Coca-Cola, a bella si alza. Ma tu l'hai fatta la curva da carico, un gatto una cosa nauseante, all'inizio ti piace, sembra Coca-Cola, poi diventa così nauseante, ogni mezz'ora ti fa di andare bene e poi ti misura la glicemia a vedere se si sta assorbendo gli zuccheri. Ogni mezz'ora, 4 ore dura mi pare, o 3 ore. Sto mandando ciò che sta da tanto presto. La signora tanto niente mi preparava nello sangue. E così l'ho fatta a me. Mi hanno fatto andare anche a fare colazione. Mi hanno detto, adesso va al bar, si fa un po' di colazione e poi torna qua. E dopo mezz'ora hanno guardato l'orologio, dopo mezz'ora mi hanno misurato la glicemia.